sabato all'agricola, al lavoro, a fare la madre si trabacca, non è finito sabato, fa cappa. Allora tra poco vai a caricare, che va veloce. Che zona sei sabato? In che zona sei lavorando? Ah, cappa cappa. Già va bene. Ciao, sabato. Alle prossime, dai, che io faccio qua per ti dai. Tutta domani si coincide, ciao. Cappa, ciao. È giovane. Ma comunque malato unica, già capisce anche lì, anche se mi pose i cani. Mi ha detto che ha preso dalla, diciamo, della pasta di cicci. Ci si è fatto male. Ma anche perché ho provato fuori, c'era freddo, gli ho messo anche il suo cappottino, capito? Ma se non mi arriva nessuno di male, ho copo, l'ho preso antuccio, quindi è tranquilla lì. Poi che c'è un Volvo, se lo vuoi, che l'ha comprato per Titi Manuela, ma Titi non lo vuole. No, ma bisogna essere saggia. Boh, non lo so. Non l'ho mai usato, praticamente l'ho messo una volta e ce lo stava tirando, non lo voleva. E le tue manuelle, ne vendono anche i cinesi. Non lo so. Tu mi hanno regalato, adesso vediamo. Da fare più di soldi a dicembre. Gli ultimi, i dolci praticamente. Ehi, vabbè. Sai che un travaglio vizio, così almeno c'è tutti i mesi. Non lo so. Ma se tu c'è un travaglio vizio, si sta male il ballo d'acqua, no? Pusci fra i nocchi, no? No, non basta, sono con la balla a stare qua. Basta, non vedo tutto. Se va bene, come devo stare là tutto quanto. No, o miglioro o peggioro. Vabbè. Ma tu hai finito di arare? Ha finito, tanto che se andava a nanna, che domani si deve alzare presto. Ecco. E tu vai a lavoro già così? E tu vai in carotto? No, non vado a lavoro io domani. Io sono in ferie. Ah, in ferie sì, non ecco. Da domani sono in ferie 2 settimane. Settimane? Cava. Non mi va bene, ma mi devo alzare sempre a testa per accompagnare i ragazzi a scuola. Quindi era matte si cosa avendo. Vabbè, li accompagniamo ancora a scuola, era lì a tua figlia, no? E li accompagna alla fermata del tram, poi si prendono il tram. Sì. Cioè, non ha tuo cognome, io te lo stavo così cercando, no? Così, ma adesso ci sono le persone. Ci sono tante, Manuela, con il tuo cognome, ce ne sono tante su Facebook. Sì. Cioè, un cognome non è, insomma, non è tipo un ribusto di... un cognome che non si sente poco e niente in giro, perché non ho mai sentito un cognome? Perché il mio cognome è continentale, se vai in continente ce ne sono tanti, se vai a Milano è pieno, se vai a Torino è pieno. Ma hai parenti lì già? A Milano sì. Ecco. A Milano c'è i miei zii, i miei cugini. Non ho capito. Aiutami. Domani mattina spolveriamo tutto. Andare. No, pensavo che, come si dice, pensavo che era, vabbè, sardo proprio no, ma comunque non ho mai seguito con nomi così. Qua c'è Merlini, Merletti, Merloni, ma Merlono. Sì, io sono amico con il mio ex collega, la volta si era a me, mamma mia, ma Brasile l'ha fatto un cazzo. Si chiamava Vincenzo? No, Massimo. Chi sarà il fratello? fido di vincere, sono sicuro. Prendeva la macchina. E via. Poi aveva anche la scuola guida, che tutto è un po' fatto. Poi si conferma il figlio, sì. Il padre è stato un ragazzo e mia sorella. Quando erano giovani, quando avevano 18 anni, 19 anni. Vabbè, capito. Sì, già lui aveva la scuola guida prima. E poi si è messo a prendere altri. Già lui. Okay. Vabbè. Cazzo, era allucinante. Hanno preso. Ero preoccupato, perché, oddio, preoccupato. Non più di tanto, ma comunque, fare manovrale lì, sai, a secondo chi trovi, inizia a rompere le palle, perché a secondo me come di fare gli impasti, tante cose, però non sappiamo neanche come lavare in mano, eppure mi hanno preso lo stesso. Ma dove stavi lavorando ultimamente? Ultimamente ero lì in via, ma si chiama, via alle Croce. Se tu scendi alle Croce lì, giù a tutti, che poi ti porta per andare lì a via Mendola, se vedi quei paletti lì sulla tua destra scendendo, li ho pettati io quelli, pettati, mo che li ho fatti io. Gli attacchi abbiamo pettati noi, ho fatto tutto insomma, il lavoro, ecco. Ma col comune se? Via. Ah, e quindi si è lavorato ancora col comune? Sì, magari, già lui intendia, magari, 4 mesi sono ne ho fatte, buco. Vabbè, lo so, un casino, uno anche se lavora adesso, già a fine di un mese è un casino. Lo so. Poi c'era questo qua che rompeva le palle, con la scusa che era lì, nelle categorie protette, è subentrato prima di me. E niente, l'hanno preso e poi cosa ha fatto? Un mese di lavaggio e 3 mesi di malattia. Bello così, no? Molta gente ne approfitta, io lavoro con 65% di invalidità e non lavoro come invalido, lavoro come una persona normale e faccio fatiche superiori a quelle che posso fare. Lo so già, purtroppo. Sonia, mi senti? Aspetta un attimo già, aspetta. Io ho il telefono, cazzo, aperto, così a fare... farla andare, il contattore va sempre, no? E poi questi telefoni qua, a quanto ho capito io, qual era il tempo? Chiami oggi, chiami domani, e allora è qua, ora era il contattore lo mandano a qualcuno e ce lo devi buttare. Quali telefoni? Quelli Skype? Tutti i telefoni già, a quanto ho capito, poi non so mai se c'è una cavolata, capito? I telefoni, i cellulari. E quando hai del tempo con i compattori, ti chiamano lui, ti chiamano domani, poi stai ore, poi vive, si accumulano, una volta che chiami, contattore. Non so se dopo arriva un certo tot, poi si impalla. Ma la prima cosa che sei? Non so, non è che c'è una cavolata, cioè, se dicono, lo dicono, così dicono. Parlare. E vabbè, non so, così dicono. Questo ne ha raccontato un po'. Ma sti quanto ne ha. Aspetta, registro chiamate. Gestione chiamate. Durata chiamata. Azzo, 29 ore ne ha. Questo ne ha tutto. Adatto la chiamata. E il codice come? 1, 2, 3, 4, 5. No. 1, 2, 3, 4, 5. Password non corrispondente. 1, 2, 3. forse una zera. Ci vuole un codice, forse se l'aveva scritto nel manuale, per azzerare i contatturi. Adesso come siete che domani ci viene a regalare la macchina al meccanico, invece lui contadino. Perché non è successo? No, è successo, non è successo niente, ma devo cambiare la cicla della distribuzione e i cuscinetti perché è arrivata sui chilometri e devi cambiare per forza, se no se ti si spacca quella ti crea un bel casino, ti butta a valvola, fa un casino. E in più devo farlo tagliare, tu li... No, a me, guarda, quella macchina me la ricompri di nuovo. Forse sì. Però la tua disponibilità mi sa di sì. L'unica. Ma qua la riposa nuova, è vero, non è roba seconda mano. Mi non puoi tu già, se non vale la pena. Ma la moto non venuta l'hai, no, ancora no. No, non ne vendo più. Dico, te la tieni? Lo sai, la volevo vendere perché ho detto spese della macchina, fare la cinghia e tutto qua, adesso anche le spese per cambiare la cinghia alla moto. Cazzo, lo sai che la moto pago più della macchina a fare la cinghia. La moto? Paga di più della macchina. La moto... ci vogliono 300 euro per fare la cinghia italiana. E l'hai fatto? No, non gliel'ho fatta ancora, perché intanto non è periodo di pigliare la moto, tranne oggi, vabbè, che è una bella giornata, l'avrei presa, ma adesso glielo faccio, inizia la primavera, là. Adesso vi faccio l'assicurazione italiana, di nuovo, è a posto, la moto non c'ha nulla, no? Lo devo fare sempre per il chilometraggio, perché a quei chilometri si fa. Io te lo ricordi questo qua? E io? Vabbè, quindi un po' tu. Te facciamo un massimo già, la pompa. E io? Sì, con la verità, ho presentato uno, la voleva 4.500, non gliel'ho dato. Quanto l'avevi pagata? 7.000 euro. 4.500. Te li dava subito, contanti. E allora, subito me li davo. Sto avendo 5.000 io, non la vendo di meno, non la regalo la roba io. Io la do per il valore che ha, non è cazzo che la devo regalare. Se te la voglio regalare ti dico, tu ti regalo la moto. Ecco, e allora è una cosa diversa. Ma se non la vendo per il valore che ha, la moto è nuova, nuova, nuova. E via, c'è un attimo già, aspetta. C'è un amico che deve mettere a posto il PC. Ciao, lascia vedere. Dimmi, dubbi. Vabbè, un po' tu già. Se riesci a dare la luce, sono fattini. Perché la devi regalare? Luca, io... meglio su un attimo, non me l'ha regalata nessuno. 7.000 euro l'ha già pagato. E in più ci ho messo un bauletto, c'è il bauletto, c'ha due caschi, lì lo stucato, non è che le avevo aumentato. Vabbè, la volta è nuova poi. Ma qua gli avevi messo la marmitta, no? No, è originale come l'ho presa, che me lo fa fare a mettere la marmitta che fa di casino e basta. Che fa 160 km orari quella moto a 20.000. Non c'è bisogno di marmitta e di cose. C'è cosa buona fa? Costa 370 euro la marmitta. Non hai capito, la Leo Vinci costa 370 euro, ce l'avevo nel 150, nel Suzuki 150 e non rendeva un cavo, era la stessa cosa, perché ho provato a mettere la normale, faceva lo stesso prezzo che faceva con la Leo Vinci. E qua la sopraggirando la moto, sì. Ah, io l'ho venuta a Porto Torres, quando ho comprato quella ho versato la mia. Sapevo chi l'aveva comprata dalla concessionaria perché era figlio di una nostra cliente. Poi quello lì l'ha venduta e si è preso il Suzuki 650. come coloro che ci hanno fatto prima a Talino. Sì, 50, e quella lì l'ha venuta, ma non so dove, non l'ho più vista, da quel momento lì che l'ha venuta non l'ho più vista, ma prima la vedevo sempre girare. Da troppo, e poi siamo a 8. E che ha fatto il cane? Il tuo PC. Quello lì mi ha detto, sembra il 4005, ti ridò subito e mi faccio il passeggio per 30 lire. Ho detto no, io 4005 non la do, mi dispiace. No. L'ho messa sull'occasione e gli ho detto, ma si può. Io guarda, per regalarla me la tengo dov'è, quando mi serve faccio assicurazione, me la uso, non è che mi crea problemi, non è per tenerla, così, perché tanto non è che spendi più di tanto, 200 di assicurazione, più che altro sono italiane le cose. Beh, ma prendi un po' tu già, se darla o meno, certo la dividere per quanto vale, non usi a... Pure all'Inter, se non ce la fai più, che magari, non so, che problemi, vedi un po' tu, dai, ecco. Ah, ma non è quello lì. Non è quello. È che adesso che sono capitati tutte le due spese, sia della macchina, eravamo tutti insieme. E ma posso una, poi posso l'altra, e fatto io. Cappa. Ma se non mi fa installare però sto cacchio di programma. Sto PC mi sono fatto le balle già, mamma mia. Pure tu li così, no già, mi è preso, pure alla fine. Sì, io stavo sino alle 2:30 di notte, alle 3:00. Mia moglie viene a letto, niente, cazzo, non mi muovevi, perché c'avevo le amicizie, ero accanito. Capito. Oggi la vite. Dimmi il passo che ti chiede. Okay. Io già chiudo presto adesso, mezzanotte massimo. Mi sdraio, ascolto la musica, mezzanotte e mezzo e già aspetto. No, io adesso me l'accendo, vado e me l'accendo, dopo che chiudo qua me l'accendo. Mi guardo un po' Facebook, la posta, se trovo qualche amica così, mi metto a chattare e poi me ne vado a letto. No, sempre, mi rilassa molto a me, però devo essere tranquillo. No, cazzo, non attendo in manco, se non ne ho voglia, mi critico che mi trovo. Cappa, e beh. Su, adesso ti dici una vecchietta, non ci dire, dice, questo qua dice, gli fa l'intervista, no? Signora, saluti tutti quelli di Facebook. Tanti saluti a tutti quelli di Lesbicum. Diventa Lesbicum. Squadra dei Coppinelli è già. Vediamo un po'. Dove sarà il 4? Ok, fatto. Lesbico. E invece Marco ha trovato un sito dove c'è delle illusioni ottiche, cazzo, guarda, è una cosa allucinante. Guardi questi puntini fisso, poi guardi il muro, dopo un paio di minuti guardi il muro e vedi Gesù Cristo. Capito? C'è un disegno, no? Su questo sito che ha trovato Marco. Guardi praticamente questi puntini fisso per un paio di minuti, poi guardi il muro e vedi a Gesù Cristo nel muro. Cazzo, ma non è una cosa grave, diciamo. No, sono quelle illusioni ottiche. Poi c'è un altro cerchietto, ti fa guardare al centro, guardi fisso. Se c'è questa ruota sembra che giri, sono degli ingranaggi, sembra che giri, no? Tu la guardi fisso, sembra che giri, no? La guardi normalmente ed è ferma. Dai, dai, io. Quanti anni ha questo Marcolino già? 9 anni. Bravo, adesso è un bacone, lo vedo. E adesso è allungato di magrino. E va? Bravo. scuola, molto bravo, prende sempre per i voti. Sia lui che Emanuela, Emanuela alle superiori è la prima della classe. Non sei contento già. Non sei contento, ci mancherebbe. Meglio così. Ma lo puoi dire che dico tua figlia va bene a scuola. E lascia anche tu che la se no la casa niente. Quanti anni ha adesso tua figlia? 18. 18 anni, è già maggiorenne. No, già va bene. Il canto lo sta portando avanti, sta sempre andando a scuola di canto. Buono, buono. Quindi vabbè, già. Adesso te ci comporti bene, che faccia le cose che deve fare. Ma fumando stanno? No, no. Non fuma. Fuma, non fuma. Perlomeno, io non l'ho mai vista. Che sei ragazzetti dolci, no, mamma mia. Vabbè, pure, già. Se lo vuole fare, meglio per lì. Vabbè, i segnamenti li diamo, poi se non li apprende. Sai come sono, no, ragazzi, oggi pensano di me, ma noi la abbastanza posata e riflette molto come fare le cose, non è di chi si rampa di così. Sì. Ma si fa i soldi a conto suo, sta prendendo la roba dell'avo, si sta già dando da fare. E ripeto, ognuno può certo che si comportare bene, capito? Poi dico, se vuole fare prendersi un vizio, sono problemi suo. Vabbè, già non si inghizza lì, si dice, non gli piace, no? Non gli piace nemmeno chi fuma, fate un conto, mi dà fastidio. Ma non fuma. Anche Marco. E c'è le volte che mi rompe male e basta. Mi diceva, papà smettila di fumare che ti fa male. Come puoi dire, mai attendere la sigaretta a casa perché mi respirava. Beh, no. Diceva. Cosa serve? Io un po', ma lo so qua, ci vedo quanto va a posto, sto qua, è entrato, ha già fatto, l'ha fatto un cazzo. Ma è il tuo? Perché c'è uno stereo mix per cantare già. Perché qua. Perché qua o metto musica. Oppure per farlo. Che due lasciano non si può, che per non è la base. Se avete lo stereo mix non si può con Windows 7, invece con XP sì, se entrano XP, ma se lo dico. Ma ti stavo dicendo, ma è nato la condivisione. Sì, sì. Ah, ma a me non ti vedo niente che non conosci. Ah, ma io qui lo sono controllando, ci vado un po' a bloccarlo. Poi da morire così non deve mai andare. Io la condivisione la non sono un amico, che tramite il computer mi metti a posto le cose quando non vanno bene. Però questo qua è una persona seria, non è un tecnico, non è, fa tutt'altro lavoro, lavora all'aeroporto di Roma, quindi se ne intende un bene. Vabbè, tutti i bravi sono qua, ma non mi prendo una mazza. No, no, quello lì è bravo, quello perché ha sempre risolto i problemi, anche quando io mi incazzavo, mi facevo venire, volevo buttarci tutto, poi arriva, ma che c'è già, fammi vedere a me, ma mi davo la condivisione, poi ci stavo anche ore, l'ultima volta c'è stato ore. Vabbè, ci sono le cose oneste, le facciamo disoneste. Di questo che amico da tanti anni, sono andato a Roma a trovarlo, lui è venuto qua, no? Siamo amici con la moglie, con lui, no, la verità sono persone come si vede, non sono persone, poi lui abita a Ostia e ci ha portato a Ostia, abbiamo visitato Ostia per due o tre volte, siamo andati vestiti insieme a Ostia. Yeah. Non so. Ripeto, sono persone oneste e persone disoneste. Ma aggiungo altro. Oh, va bene, va bene. Si è sentito di quella ragazza che da 5 anni che amoreggiava con questo che al computer, poi quando hanno deciso di conoscersi, la mamma di lei non voleva. Non ci andare, figlia mia, mamma sente qualcosa, non ci andare. Mamma, ma ci conosciamo da 5 anni, siamo, è come se stessimo fidanzati, perché 5 anni che parliamo al computer insieme, sappiamo tutto uno dell'altro, e cosa, beh, alla fine ho voluto andare, la figlia, e cosa ha fatto? L'appuntamento, ha richiamato macchina, l'ha ammazzata, l'ha violentata e poi se l'ha ammazzata. E l'hanno trovato perché lui si è anche fregato il telefono di lì. Praticamente per non far trovare la sua chiamata, quando l'aveva chiamata per l'appuntamento. Cosa è successo? Che l'ha lasciata accesa, tramite la traccia l'hanno beccata. Allucinante. Io penso una cosa, perdi 5 anni con una persona, così, boh, e poi l'ammazzi. Non riesco a capire questa gente impazzita, boh, che esiste. Gente malata, secondo me, già. Gente malata. Gente malata. È una cosa allucinante, qua. Boh, non lo so. Non ho parole. Grazie, la madre di lei se lo sentiva, gli ha detto, figlio mio, non ci andare, mi sento che c'è qualcosa che non va bene. E lui dice, ma ci conosciamo 5 anni che parliamo al computer e cose, la madre insisteva, non ha voluto darle retta come tutti i figli. Quando i genitori dicono una cosa non le danno retta. Beh. Ma comunque. È un casino. È un casino già, perché c'è gente che non c'è più la testa, adesso prendi questa ragazza che hanno ucciso, questa, come fraccazzi, come si chiama, ma ragazza, un casino ne scende, un casino, prima la rubavo, la voglia migliore, la voglia pure la mamma, questa, non so, questa amica, un casino ne sta uscendo. Per me c'entrano tutti, l'ho detto dall'inizio, per me tutta la famiglia va intercata. La prima cosa che ha detto Liliana, ha detto, quando mai una donna di casa, cioè la madre, non si rende conto che c'è qualche cosa in casa che non va. Dopo chiamata una persona non si rende conto. Io dice, mi accorgo se tu sposti uno spillo da qui a lì e lì non si accorge dalle facce, dalla tensione, dalle cose che possa succedere, sia successo qualche cosa. Infatti, ne è nato un casotto già. Ecco, mix le canali. Ne è nato un casotto, grande, capito, grande. Cazzo, ogni giorno io faccio il televisore, ogni giorno, c'è sempre questo cacchio di questa ragazza. È come il figlio di Ramanzoni, cazzo, è stato per anni, madonna. Allora sono persone che hanno uno sbloccamento di carattere. Cosa succede? Che loro si convincono, da una parte si convincono che loro sono innocenti e fanno una parte di innocente, ma ci sono anche praticamente dei dottori, dei psicologi che si chiamano psicologi della menzogna, si accorgono quando uno dice le bugie. Dal comportamento, se uno per dire piange e non sta piangendo davvero, se ne accorgono dalla muscolatura della faccia come si muove. Subito vero, proprio me l'ha ucciso, ma lei ingannerà sempre. Penso di sì. Allucinante, va. Allucinante. È un casino. Non so, il gusto ci prende, la gente è pazza, no? Ecco, io dico che uno se ne approfitta di una bambina di 2 anni, 3 anni, una persona grande, non si però non ho capito. cosa della psiche, deve essere che possono essere anche persone che sono state violentate da piccole e non l'hanno mai detto a nessuno e si portano dentro questa cosa e lo fanno con sotto forma di rimedica di cose, capito? Eh sì, è stato anch'io già. E c'è il vostro qua sound, ci sono già 3D. Aspetta, ma c'è il codice già, aspetta. Raga, stavo facendo comprare una cosa che c'è un jab, si è fuori di testa. Chi è questa Sony? Ah? Chi è Sony? No! Gava. Ma c'è una mica mia cominciata a ora ci è venuto l'infarto. Cosa? Una amica mia con cui ci attavo, mi è venuto un infarto ed è in grave condizione da noi. Ho messo 3 bypass, casa 47 anni già. Dice che gli è venuto un mal di stomaco, questo me l'ha raccontato un altro amico che ci attava insieme a lui. Mi ha detto che gli è venuto praticamente questo mal di stomaco e pensavo che fosse la cassura che fanno a Milano, no? Perché questo è milanese, e che fosse pesante, è una zuppa che fanno loro a Milano. E invece poi dice che ha cominciato il dolore al braccio, qualcosa, alla fine l'ha accompagnata all'ospedale. E l'hanno operata ad urgenza, sono stati tutta la notte operando. Ma è grossa la sua tipa, magra? Magra, normale, bionda, una bella ragazza. E lo sai cos'è, fa turni un po' stressanti, lavora in una ditta tipo la Siancardi. Pesa la carne, la mattina presto, fa le bolle, lavora in ufficio, poi non hanno orari, allora che si finisce, caricano in camion un frigo, la notte, la sera prima di andarsene, finiscono un pentato e fanno tutta una tirata, non mangiano, mangiano un panino così. Beh, mi stava, non c'entra niente, quando è grasso o magro. E lo stress dell'olive l'ha fatto venire, secondo me, perché lì è una persona che lavora bene. Lì a Milano si fanno un panino a pranzo, mangiano bene a cena, ma a pranzo si fanno un panino così veloce, basta, non mangiano altro, continuano a lavorare di continuo. Che nelle fabbriche così, perché i miei cugini, già è vero che si hanno fatto vite esorbitanti, belle, con piscina, con tutto, però tutti e due lavorano in fabbrica, fanno orari che si vedono pochissimo. Sì. Aspetta. Oh, ma stai facendo la cosa, la... là, ok. Adesso dice mi compro un adattatore anche, mi compro uno, adesso vediamo cosa riesco a trovare. Mi ha diventato il mio figlio. Non ti prendere i suicidi da 50 perché sono tutti difettosi. Adesso vediamo. Se te lo prendi prendetelo da 30, da 50 difettoso. Siamo già, abbiamo avuto 2-3, tutti cambiati. Erano tutti difettosi. Adesso vediamo, lo riesco a trovare. Vediamo un po'. Non riusciamo a trovare. Là, prova. Che sta funzionando adesso? Là. Posso fare? Aspetta già, 2 secondi. Ma per quello grande lo pure. Venga. Pigliate 50 ampere di quelli che ho trasformato direttamente. Se quelli da 50 ampere switching, praticamente sai cosa succede? Io a un certo punto si spengono. Per dire, tu lo spegni, vai a riaccendere, non riaccendi. Stacchi la spina, la riattacchi e si riaccende, non continua a funzionare normalmente. Se vediamo già, vediamo un po' cosa riesco a trovare. Quando vanno la di questa vacca qua l'audio in notte si è fatto guardare quello da Kingwood, ma quelli costano un po', capito? Paga. trasferirai. Ho capito già. Poi tu ti vuoi trasferire in casa. Devo fare già, mica posso fare sempre con di mamma. Ma prima secondo me dovresti trovare un lavoro fisso. Allora sì. Cosa già ho capito? Beh certo, normale, no? E lei resterebbe da sola? No, ce l'ho fatto. Si vuole al termine, abilita, disabilita. La mamma non mica faccio non va più. Non è una mazza questo, una persona grande anche, va, non so, una cinquantina, sessantina d'anni. Questo che ti sta toccando qui? Sono su tal tacco, l'ho trovato, lo ricordi? Tu vai a rumo lì, fa karaoke. No, no, io non ci sono entrato. Che cosa che non ho capito, no? No, non me lo ricordo. Sì, ma tu ti fidi troppo a far toccare il PC da tutti quanti. Guarda. Che ti fidi troppo a far toccare il PC dagli altri. No, ma sto bravo non lo sta facendo, mica sono così scemo. No, non faccio anch'io queste cose qua. Non ne capisco un cazzo. No, guarda di attivato le cose mi sei tu io. Cosa cambia? Non cambia niente. Adesso vai tocco. No. Questo non capisce niente. Ormai c'è un soccorso. Se non faccio la compagna un soccorso, sono di buttati. E allora non è mai forte la benedizione degli animali? No. Allora l'avevano fatta nella chiesa di San Francesco, quella che c'è salendo su da Natalino, c'è una chiesa e dall'altra parte c'è questa chiesa e San Francesco io già lo farò la prova, aspetta. Buonanotte a tutti, anche gli ascoltori, ancora ti permetto. Ciao, già, buonanotte a domani, ciao. Ciao.